Il punto di Stefano Folli. Speriamo che la telenovela della riforma elettorale si concluda al più presto, certo con un compromesso decente che serva a ricomporre gli strappi e che accontenti il Partito Democratico, che si immagina primo alle prossime elezioni e vuole rimanere il perno, come dice Bersani, delle future alleanze. Sì, speriamo che si faccia presto, perché ormai sappiamo due cose. La prima, che una qualche riforma a questo punto si farà, e due, che non sarà una bella riforma, sarà brutta, però adeguata all'Italia politica di oggi. Sarà una fotografia del paese così com'è. Ma uscire dal pantano della riforma irraggiungibile è l'unico modo per rimettere in moto i processi reali, per dare un senso al percorso elettorale, senza dimenticare la sola cosa che conta, che il prossimo governo, sia pure un altro governo Monti, non potrà nascere dalle alchimie elettorali, ma da precisi accordi politici fondati sui voti raccolti nelle urne. Questa è l'unica sfida democratica che conta.